Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Nell'intervallo prendo la mia mountain bike, piazzo la bandiera tra sedile e parafango e faccio un giro del paese. Ma a fermare la mia corsa è una signora un po' anziana che mi rimprovera dicendo: sei pazzo? Porta sfortuna a festeggiare prima. Sono Enrico, sono di Parata, in provincia di Campobasso. Ho 32 anni, sono un operaio metalmeccanico. Luglio 1994. Chiamatelo uomo dell'ultimo minuto. Adesso sì che sembra Paolo Rossi. Non solo perché segna quando serve, perché pare che non ci sia e appena ti volti, eccolo là, sparviero, pronto a rubarti il cibo. Perché quando manca poco alla fine, lui è capace di trovare un inizio nuovo. Perché segna i gol del campione, quelli che gli altri, che si chiamano Salinas, falliscono. Adesso sì che è sempre meno Baggio e sempre più Paolo Rossi. Non solo perché gioca quasi da fermo, non solo perché in pratica fa il centravanti, non solo perché non butta via l'unico pallone capace di non farti arrivare in ritardo all'incontro con il destino, ma perché ormai ha rinunciato ad essere se stesso, a fare il Roberto Baggio che finta, sguscia, diverte, si diverte, inventa gol bellissimi, complicati, dolci, cioccolata calda su un gelato freddo. Ormai non ci prova più a fare il diverso. Quello che in ogni partita vuole ribadire di non essere uno che si può piegare, imprigionare, omologare, tipico di chi pensa che il suo vero io è sempre da un'altra parte e non in quello che sta facendo in quel momento. Ormai ha rinunciato ad accendere le partite, ormai ha accettato l'idea di spegnerle e basta. Non vuole più essere utile, necessario, bello, non devastato dalla fatica, quello che ad un certo punto si allontana e inserisce il pilota automatico perché se non ci si diverte allora tanto vale staccare la spina. Adesso vuole solo essere determinante, freddo, cinico, pratico, sodo. Un bravo professionista del gol. Forse senza goderne troppo, forse pensando che segnare così, segnare basta, sia la cosa più piccola e riduttiva che ci sia. Adesso sì, che è come Paolo Rossi nell'82. Buongiorno a tutti, questa è Radio 24, io sono Matteo Caccia e il programma ovviamente e voi siete qui. Questa è una piccola novità per questa terza stagione, dal momento che di solito il programma chiudeva ufficialmente i battenti a fine giugno con il live che abbiamo fatto il 26 e poi ogni tanto andavano delle puntate, ma spesso era il meglio della stagione scelto e rimanato in onda. No, quest'anno noi siamo in onda con puntate fresche e nuove. Sono 4 settimane con 4 temi diversi, ve l'abbiamo chiesto più o meno a maggio-giugno, ci sono arrivate storie che parlano di mondiali di calcio, storie che parlano di guerra perché è l'anniversario, 100 anni della prima guerra mondiale, storie che parlano di avventura e storie che parlano di viaggi, quindi fino alla fine di luglio noi saremo in onda tutti i giorni alle 16 in punto. E la cosa che vi ho letto era un articolo che ha data appunto 11 luglio 1994 e ricorda una partita ben precisa. La partita era Italia-Nigeria e il protagonista, se non ve lo ricorderete, l'avete capito, era Roberto Baggio. 349-238-6666 oppure il profilo Facebook e quello Twitter del programma, che sono Voi Siete Qui R24, quello Twitter, e Voi Siete Qui Radio 24 invece, quello Facebook. La storia di oggi, la storia di Enrico, è una storia che parla esattamente di quella partita là, di come l'ha vissuta, visto che queste sono le storie che racconteremo in questa settimana, di come l'ha vissuta lui, ma soprattutto di come ha vissuto un pezzo di quella partita. Esattamente l'intervallo. Che cosa ha fatto in quell'intervallo? Che cosa avete fatto nell'intervallo di una partita importante che ancora ve lo ricordate? Una partita dei mondiali, possibilmente. 349-238-6666. Emilio scrive su Facebook: durante l'intervallo di Italia-Olanda negli europei del 2000 sono uscito per prendere un gelato. Per tutti era pomeriggio ed era caldo. Ah, un gelato per tutti, perdonami. Era pomeriggio ed era caldo. Mi hanno fermato al semaforo, mi hanno rubato il motorino. Sono andato in questura e ho visto i rigori parati da Pagliuca con i poliziotti abbracciando come fratelli alla fine della partita. Quella è la partita, giustamente, dei rigori di Pagliuca. Sara, durante l'intervallo di Italia-Germania 2006, e poi vi racconterò anch'io che cosa ho fatto durante quell'intervallo, non reggevo la tensione e sono andata a correre. Ho fatto i miei 8 km in 45 minuti. Sono tornato sperando che fosse finita e invece c'erano ancora i supplementari. Ma alla fine che godimento. 349-238-6666. Paolo dice: io avevo 8 anni e non ricordo la partita Italia-Germania dell'82, ma ricordo che nell'intervallo andai in camera dei miei, che non erano interessati per nulla al calcio, e li trovai nel loro letto a rotolarsi fra le coperte. Non dimenticherò mai quel giorno, ma noi non ne parlammo mai più. Immagino che sia stato un giorno particolare, ma è stato un giorno particolare anche per Enrico, e di particolare c'è stato quell'intervallo, l'intervallo di quella partita, Italia-Nigeria nel 94. Ho 12 anni e sono già campione del mondo. Però questo è il primo mondiale di calcio che seguo. Siamo a USA 94. Dopo un girone di qualificazione disastroso, una sconfitta, una vittoria e un pareggio, l'Italia riesce a qualificarsi come migliore terza agli ottavi. Direi che siamo stati fin troppo fortunati. La prima la perdemmo con l'Irlanda. Poi ci fu una vittoria, mi pare, con la Norvegia. E infine un pareggio con il Messico. Nella partita successiva affrontiamo la Nigeria, qualificata come prima del suo girone. Anche questa inizia subito male, con i nigeriani in vantaggio a metà del primo tempo. Il secondo non va meglio, dopo l'espulsione di Zola sembra tutto finito. Finché Baggio, all'89esimo, segna e ci dà qualche speranza. Nei supplementari, nonostante l'inferiorità, riusciamo a passare grazie a un rigore sempre di Baggio. Ecco, finalmente, il giorno dei quarti. Affrontiamo la Spagna. Partita difficile, ma io ho molta speranza. Per la prima volta in tutto il mondiale siamo noi ad andare in vantaggio, con Baggio, ma questa volta è Dino. Io sono felicissimo. Prendo la mia mountain bike, piazzo la mia bandiera tra sedile e parafango e faccio un giro del paese. Mi appare deserto, come non mai. Scalo la salita che mi porta in piazza, faccio il giro e mi lancio lungo la discesa che porta a casa per il secondo tempo, ma pochi metri prima, a fermare la mia corsa, è una signora un po' anziana che mi fa segno di fermarmi. Appena le sono vicino, mi rimprovera dicendo: «Ma sei pazzo? Porta sfortuna a festeggiare prima!» Rimango basito e in silenzio. Torno lentamente a casa, mi rimetto davanti alla TV. Ripenso alle parole della signora e dico tra me: figurati se un bambino di 12 anni può influenzare una partita. Inizia il secondo tempo e dopo 10 minuti circa, pareggio della Spagna. Ero distrutto perché pensavo davvero che era mia la colpa di quel pareggio e non capivo come un bambino di 12 anni potesse influire su una partita. Rimango impietrito, ripenso alle parole della signora e continuo a guardare in silenzio. Mio padre, che forse mi vede preoccupato, mi dice: «Tranquillo, tra un po' segniamo». Bisogna aspettare quasi la fine della partita, ma il gol arriva. Il più bello di sempre per me. Gol di signore. Finalmente posso prendere di nuovo la mia bicicletta e fare il mio giro con la bandiera. Mi dirigo verso casa della signora, ma non la vedo. Pazienza. Festeggio consapevole che un bambino di 12 anni non può portare sfortuna alla propria nazionale di calcio. La fai su personaggio, ma mi fio di un bolso, chega me assando, se mi male molente, noi conhecemos bem todos seus lindos desmaios, seus colapsos de paixão, quedas de sofrimento. Ela é mestre da arte de ser atriz. Ok, quella di Enrico è stata una scelta piuttosto azzardata, lo ammetto. Però è vero che durante una partita di calcio, specie dei mondiali, l'intervallo è un tempo piuttosto strano e sospeso. Spesso è necessario scaricare la tensione, a volte però quell'intervallo è una sorta di condanna che dura troppo tempo e ti lascia con il fiato a metà. Qualche tempo fa ho visto uno studio basato sul traffico telefonico nella città di Roma la sera della finale Italia-Francia del 2006. In sostanza la gente telefona e fa cose fino a un minuto prima del match e poi esplode alla fine dopo l'ultimo rigore di Grosso. Per il tempo della partita però tutto è immobile, tranne che per l'intervallo in cui qualcuno fa qualcosa, magari telefona, va in bagno. È sempre molto ridotto il movimento, anche in quei 15 minuti. Io, durante i 15 minuti di quella finale, quella del 2006, l'ultima che abbiamo vinto intendo, mi sono spostato da un locale ad un altro. Per una strana serie di motivi, ho visto quella finale, quella del 2006, in Francia, a Parigi. Ero al quartiere latino e ho trovato una brasserie piuttosto vuota. Di fianco a me c'era una famiglia australiana e per mezz'ora il papà mi ha asciugato con la storia che il rigore su Grosso, segnato da Totti a 3 minuti dalla fine, non era rigore. O era fuori dall'area, non ricordo bene. Quando sono riuscito a farmi lasciare in pace, Zidane segna il rigore per la Francia. E lì mi accorgo di essere ovviamente attorniato da francesi. Dopo 15 minuti arriva il gol di Materazzi e lì mi accorgo di essere l'unico italiano, ma soprattutto di non essere in ottima compagnia. All'intervallo, quando inizio a vedere che la gente mi guarda piuttosto male, mi sposto alla ricerca di un locale più accogliente. Giro per quei 15 minuti interminabili. Parigi è deserta. Ogni tanto qualche voce esce dalle finestre e canta una canzoncina che cantavano tutti in quel periodo, in giro per le strade, dalle macchine. Una canzoncina che diceva una cosa tipo Zidane il va marché, mi pare, su una musica vagamente brasiliana. Entro in un pub irlandese, ma non c'è un tavolo libero. Controllo l'ora. Mancano 5 minuti al secondo tempo. Tutto deve ancora succedere, anche se i due che si giocheranno quella partita saranno gli stessi due che se la sono giocata nel primo tempo, ma per motivi diversi, ovviamente. Sto parlando di Zidane e di Materazzi. Quando arrivo davanti a un capannello di persone che da fuori un locale guarda la partita e urla in italiano, capisco che forse ho trovato il posto per me. La vedo male quella partita, e da lontano, ma almeno non sono da solo e contornato da persone amiche. Quello che successe poi lo sappiamo tutti, e tutti probabilmente si ricordano che cosa hanno fatto in quei 15 minuti tra il primo e il secondo tempo. Rio, seu marco, quas praias, sem fim, rio, você foi feito pra mim. Cristo redentor, braços abertos, só pra Guanabara. Este samba é só porque rio, eu gosto de você. A morena vem samba, seu corpo todo balança. È una foto pazzesca quella che ci ha mandato Enrico e che è perfetta per il 30 di giugno. Cioè, se fosse stato il 30 di dicembre non l'avrei invidiato particolarmente. Invece oggi è proprio la foto che vorrei vedere. Lui è al mare, cioè un mare molto azzurro, e lui esce dall'acqua con un certo vigore, nell'atto, credo, di fare una bracciata del nuoto in stile delfino. Pronto Enrico? Pronto, ciao Matteo. Ciao, come stai? Bene, tu? Io bene, sembri in Brasile dal ritorno che hai al telefono, invece dove ti trovi? Sono dal lavoro, sono in macchina, prende molto tempo. Ma figurati, nessun problema. Dove sei nella foto che ci hai mandato? Sono a Termoli. A Termoli, che è il luogo di mare del Molise, sì. Sostanzialmente, giusto? Sì. Cioè, è il più famoso, ma ce ne sono altri in Molise di luoghi di mare? Sì, ce ne sono altri, ma quella è la più grande. Ok, ed è tra l'altro un posto poco conosciuto, invece è un posto bellissimo, Termoli. Sì, sì, è molto carino, ha un bel borgo antico, sì, dai, bella città. Un po' tutto il Molise è poco conosciuto, ma forse è anche meglio così per voi, ve ne state un po' meglio probabilmente. Sì, guarda, forse è meglio così. Esatto. Senti, Enrico, che cosa fai nella vita? Io sono operaio metalmeccanico. E quindi esattamente che cosa produci? Cosa produce l'azienda per cui lavori? Allora, io mi occupo del lavoro nel reparto verniciatura. Diciamo che produciamo veicoli commerciali. Ma veicoli commerciali, cioè tipo furgoni? Furgoni. Ah, e vernici furgoni? Sì. Ma ci sono dei forni, ovviamente, no? Come si chiamano? Sì. No, ma è una fabbrica molto grande. No, immagino sia super meccanizzata anche, no? Cioè, sì, schiacci sì, dei bottoni, esatto, grosso modo. No, io lavoro proprio con la pistola, proprio in modo manuale, però sì, ci sono anche i robot. Ma è la Fiat, giusto, di Termoli? No, non di Termoli, sì, però di Val di Sangro. Ok, va bene. Da quanti anni lo fai, Enrico? Da 8 anni. Senti, invece andiamo a quella partita là. Perché effettivamente, cioè, è un po' azzardato, visto con gli occhi di un adulto, festeggiare all'intervallo. Però c'hai ragione tu quando dici... Però io ero un bambino. Ma appunto, no, ma poi soprattutto è logicissimo. Ma ti pare che uno di 12 anni, ma pure uno di 60, può influire su una partita di calcio solo perché va in giro a festeggiare? Cioè, in realtà il ragionamento non fa una grinza. però dopo il gol della Spagna io mi sono preoccupato. immagino. Senti, invece mi ricordavo male una cosa, sai? Quale? Il secondo gol era dei signori, invece sono andato a rivedere, era di Baggio. Ah, infatti, sì, guarda, ne stavamo parlando adesso in studio, perché quella partita lì ce l'ha tirata su Baggio, se non ricordo male. Sì, l'assist era di signori. Infatti sono andato a rivedere, infatti mi ricordavo male. Senti, invece, visto che poi io parlavo invece dell'intervallo che ho passato durante Italia-Francia nel 2006, dove l'hai vista quella partita? Cosa fate in quell'intervallo invece? Te la ricordi? Allora, Italia-Francia del 2006. La finale del 2006. Sì, ah, sì, l'ho guardato a casa di amici. Ok, quindi abbiamo fatto un gruppetto, sì, dopo. Durante l'intervallo sei stato schiscio. No, durante l'intervallo sono rimasto a capo. Ok, esatto. Senti, torno un attimo alla foto perché è bellissima. Cos'è? Delfino quello che stai facendo? Sì, delfino. Ma tu sei un nuotatore? No, nuoto così, in modo amatoriale, se mi piace. Ah, okay. Però me la cavo. No, perché io questa mossa qua riesco a farla, ma solo dove tocco. Perché toccando mi do una spinta con i piedi, esco e sembra che sto facendo delfino. No, non vale. Lo so che non vale, Enrico, c'hai ragione te. Senti, Enrico, tu c'hai una famiglia, c'hai figli, moglie o fidanzate? No, sono single. Ah, sei single, quindi non c'hai il problema. E lo dici anche con un tono piuttosto compiaciuto, tutto sommato. A me non dispiace, poi molto. Quanti anni hai, Enrico? Scusa, me lo ricordi? 32. Ah, vabbè, ho capito, ma perché sei giovane, giovane adesso, mediamente per l'Italia sei giovane, giovane. Sì, per l'Italia sono giovane. Quindi, scusami, hai cominciato a lavorare 8 anni fa, avevi 26 anni? No, 24 anni. Sì, 24, 25, non ricordo esattamente. Hai cominciato abbastanza presto? Sì, ho fatto un periodo, in generale, poi sono diventato fisso, non ricordo, nel 2005 mi pare di entrare. Ok, senti Enrico, io ti lascio andare perché so che stai andando al lavoro, ti stai facendo il turno di pomeriggio. Il tuo turno. Cosa fai quest'estate? C'hai ferie, vai da qualche parte, stai a Termoli? Sì, ho ferie ad agosto, passerò diverse giornate a Termoli, poi non so se riesce anche una vacanza un po' più lontana, vedremo. Ok. Enrico, ti ringrazio molto per la chiacchierata e per la storia, in bocca al lupo per tutto. Ok, grazie. Ciao, buona estate. Ciao. Eccola qua, grande Paolino Corleoni. Senti che schifo, tra l'altro. Ma la cantavano tutti, tutti cantavano. Ed è una canzone che poi c'ha sto ritornello che credo voglia dire Zidane segnerà, giusto, il Va Marche, però poi nominava tutti i giocatori della Francia di quell'anno. Adesso non si capisce, ma lascia andare. Sì, Vieira, senti che dice i nomi, un po' come con la canzone per lo scudetto della Roma c'era una canzone di Brusco, guarda cosa ti tiro fuori Bolini, c'era una canzone di Brusco che per lo scudetto della Roma citava tutti i nomi dei giocatori della Roma, una roba simile. 349-238-6666, visto, ecco, perfetto, visto che giusto Claudio chiedeva che canzone era quella che cantavano in Francia, era quella che hai appena sentito. Si parla invece di intervalli di partite importanti. Serena, intervallo di Italia-Cile, Francia 98. Andiamo al riposo sull'1-0. Io chiedo a mio marito di accompagnarmi a fare la spesa. Lui mi guarda come se fossi una matta, lo convinco e usciamo. Al nostro ritorno la casa è piena di amici per festeggiare il suo 40° compleanno. Festeggiamo però di più al pareggio di Baggio su rigore inesistente. Questa roba del rigore inesistente ogni tanto per quanto riguarda l'Italia torna, me lo ricordo benissimo. Baggio fa un cross e tocca la mano del difensore cileno, giusto? Era quello lì. Cerca la mano proprio, esatto, sì. Mi ricordo poi i commenti. Guarda i rallenti, vedi che la cerca. Quel genio di Roberto Baggio. Quanto ci manca Roberto Baggio. Grazie a tutti quelli che hanno reso possibile anche questa puntata. Io vi ricordo che per tutto il mese di luglio noi siamo in onda con delle puntate nuove, originali. Questa settimana stiamo raccontando storie di mondiali, storie di partite dei mondiali. E poi faremo in un ordine che adesso non ricordo: guerra, avventura e viaggio. Grazie a Paolino Corleoni, Tiziano Bonini, Margherita Hina. Grazie soprattutto Enrico, perché la storia di oggi era la sua e anche lui è un punto rosso su una mappa.